Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Dopo la puntata di settimana scorsa che all'indomani della messa al bando delle lampadine incandescenza abbiamo dedicato alla scelta delle migliori sorgenti di luce per i vari locali della casa, scegliendo tra alogene, LED e fluorescenti, torniamo questa sera a parlare di lampade, fonti di luce varia, ma questa volta dal punto di vista della salute. Lo spunto ce lo fornisce una ricerca pubblicata recentemente dall'Università di New York, nella quale si parla di emissioni pericolose di ultravioletti da parte delle lampade fluorescenti compatte, quelle che diciamo molti italiani chiamano semplicemente lampade a risparmio energetico. Dubbi d'altronde su alcuni aspetti qualitativi della luce emessa ne sono stati sollevati a suo tempo anche sui LED. E d'altronde, se le incandescenti avevano senza dubbio un'efficienza ridicolmente bassa, è pur vero che le abbiamo usate per più di 100 anni e sappiamo per certo che la loro luce bianco caldo è una luce piacevole ed è una luce innocua. E lo stesso possiamo dire per le alogene. Ma possiamo dire altrettanto anche di LED e fluorescenti? Ebbene, cerchiamo di capire come stanno le cose con l'aiuto di Gianni Drisaldi, che è presidente dell'Associazione Italiana di Illuminazione AIDI, che è tornato a trovarci. Buonasera Drisaldi. Buonasera a me. Allora Drisaldi, partiamo dalle fluorescenti e dalla ricerca dell'Università di New York secondo cui emettono un po' troppi raggi UV. Dunque, allora, le lampade fluorescenti non è detto necessariamente che emettano molti raggi ultravioletti. Il problema è che se si immagina che il sole a mezzogiorno abbia un andamento abbastanza regolare di quella che è l'emissione di luce, pensando a uno spettro che parte dal rosso, passa per il giallo e poi va verso il viola, e dove sono il blu e il viola, dove sono gli ultravioletti. Se prende la curva spettrale di una lampada fluorescente, ha delle guglie, diciamo, ha una specie come se fosse un po' il fronte. Ho capito cosa sta dicendo. E dipende da dove quelle guglie arrivano. Allora lei può avere delle lampade fluorescenti che emettono più raggi ultravioletti e di lampade fluorescenti che emettono meno raggi ultravioletti. Ciò non toglie che una componente di raggi ultravioletti comunque la emettono. Però devo dire sinceramente che in generale credo che non sia un problema sotto il profilo della salute, non siano valori estremamente significativi. Ci sono stati in passato alcune lampade che avevano delle grosse componenti di raggi ultravioletti, e lo si vedeva dalla colorazione estremamente bianca. È classico l'esempio delle vetrine. Le vetrine dove a un certo punto, per togliere le lampade alogene, sono state messe delle lampade ad alogenuri metallici che avevano una grossa componente di raggi ultravioletti e avevano però un grossissimo rendimento, ma magari poi si scopriva che i colori azzurri, in particolare i colori pastello azzurri dei vestiti, sbiadivano rapidamente, segno di forti emissioni però di ultravioletti. Insomma, lei sta dicendo che è un problema che può riguardare alcune lampade, perché in questo studio addirittura si parlava di abbronzatura, però poi in realtà si diceva solo se ce l'hai a 20 centimetri dalla faccia, che non è una situazione così frequente, insomma, oppure che si possono schermare, basta il solito vetro, diciamo, se stanno dentro questi bulbi ad un altro strato di vetro il problema non si pone. Sì, ritengo che sia un problema che non va sottovalutato, ma non va neanche saltato in maniera incredibile. Insomma. Senta, anche i LED sono stati un po' sotto accusa. Per esempio, si dice che i LED, soprattutto la prima generazione, avevano forti emissioni blu, e il blu, usato nell'illuminazione stradale in particolare, crea dei problemi, perché è più abbagliante per gli anziani, per esempio interagisce con la cataratta. In più, il blu, che è il colore del cielo di giorno, tende a disturbare il ciclo sonno-veglia, interferisce con la melatonina, eccetera, eccetera. Qui che cosa ci dice di tutta questa vicenda? Diciamo che questo è un problema che è venuto fuori e soprattutto è stato cavalcato da coloro che sono un po' contrari al LED. Siccome il problema del LED in realtà era l'efficienza, nel senso che per poter avere una grossa emissione di flusso luminoso era necessario spingere, diciamo così, verso una temperatura di colore molto elevata, sui 6-7 mila gradi Kelvin, che vuol dire avere delle luci molto bluastre, bianche, e tendenti al bluastro. Quindi diciamo che tutte le prime generazioni dei LED erano tendenti a quel colore. Oggi la tecnologia ha fatto passi da gigante sotto questo profilo, per cui si riescono ad avere lampade a LED con tutte, insomma, temperature di colore intorno a 3.500-4.000 gradi Kelvin, che sono colorazioni già molto più calde, e comunque con delle performance energetiche interessanti. Quindi lei sta dicendo che, insomma, quei problemi non erano del tutto campati per aria, ma che sostanzialmente oggi, se si sta attenti e si scelgono le tecnologie giuste, sono problemi superati. Sì, sì, in effetti è così. Difatti, se vede sulle nostre autostrade, uno dei punti dove maggiormente sono stati utilizzati i LED, naturalmente uno del mestiere ha l'occhio più critico, però dai primi esempi agli attuali, alle ultime generazioni, si vede che la colorazione, sì, della luce è leggermente, diciamo che la temperatura di colore è un po' più calda. D'accordo, va bene, grazie Drisaldi. Prego, è stato un piacere. Bene, che cosa possiamo imparare da queste due puntate, quella di stasera e quella della settimana scorsa, in cui abbiamo parlato delle varie fonti di luce che si trovano sul mercato in termini di qualità dell'illuminazione e resa energetica? La prima cosa che dobbiamo capire è che, a differenza di quanto accadeva con le vecchie incandescenti, più o meno tutte uguali, se parliamo di LED e fluorescenti, sul mercato si trovano prodotti con caratteristiche molto diverse tra loro e anche di qualità molto variabile. Quindi, se parliamo di illuminazione pubblica, a maggior ragione bisogna stare molto attenti e cercare di interrogarsi su aspetti anche non banali, come quelli legati alla salute. E se parliamo delle lampade di casa, scegliete prodotti certificati di qualità o rischiate di sacrificare salute e comfort visivo a risparmio energetico. Secondo, ricordate che esistono luci di tonalità diverse. In gergo si parla di temperatura di colore e una prima distinzione molto grezza è tra luci fredde, cioè con una tonalità bluastra o verdastra, e luci calde, cioè con una tonalità più tendente al giallo o al rosato. Ebbene, dovendo scegliere tra questi due estremi, meglio puntare sulle luci calde, che sono meno problematiche e dal mio punto di vista sono anche parecchio più allegre. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani. Buona serata.